Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Dividiamo i magazine in due parti uguali, questo inizio matematico, anche perché avremo in presentazione, in partenza, tra scienza e filosofia, dalla Domenica del Sole 24 ore, tre protagonisti che andrò a presentare, che ci parleranno del pensiero del terzo millennio. Anticipazione, tanto da me e non solo atteso il lavoro di Giulio Busi, grazie all'intellettuale Giulio Busi, che avremo, spero, a breve in diretta telefonica per parlarci di questa biografia dedicata a Giovanni, il discepolo che Gesù amava, da Mondadori, Edizioni e Collana Scie, per parlarci di questo grandissimo personaggio. Beh, lo faremo con il protagonista che ne ha portato un saggio in approfondimento biografico dedicato all'Evangelista dell'Apocalisse, che sarà per voi, è un bel premio, direi bellissimo, 333-180-9494, studiate gli arcipelaghi, mi raccomando, perché sarà questo il motivo di quiz. So pick up yourself and see the new day breaking, making you tighten your belt. I melt the ice that's blocking the path from me to you. Can you see it now, brothers? Pensiero del terzo millennio, tre protagonisti. Allora, vi parlo di Saul Perlmutter, professore di fisica a Berkeley, John Campbell, filosofo, anche lui docente a Berkeley, Robert McCone, psicologo in ambito sociale all'università invece di Stanford. Si sono incontrati e hanno parlato di come interpretare e come portare avanti un lavoro per scovare il senso con una strategia. Il mondo sta diventando sempre più difficile da decodificare e il pensiero del terzo millennio dovrà lottare contro ostacoli nuovi e multiformi. Un fisico premio Nobel, un filosofo e uno psicologo, di cui vi ho dato presentazione poc'anzi, presentazione anagrafica, provano a dare gli strumenti attraverso un saggio: trovare il senso in un mondo senza senso. Mica facile pensare nel terzo millennio. Nel libro si trovano domande e non sempre le risposte, perché, come diceva un noto personaggio che ho amato tantissimo, Guzzanti, le risposte sono dentro di noi, solo che molte volte sono sbagliate. Si parla di ottimismo quando si inizia un progetto, per identificare, per avere queste strategie. Indubbiamente l'ottimismo è qualcosa di fondamentale, di motivazionale, ecco, per adoperare una parola più adatta, ma al contempo è anche un potente fattore di sottovalutazione delle difficoltà che andremo ad incontrare. Non so, nulla però è da sottovalutare. Ricordo, da elettricista porto sempre i miei ricordi da operaio, quando, beh sì, facciamo in fretta, qui c'è da cambiare solo una lampadina, e con ottimismo, dai, partiamo, poi abbiamo finito, magari ci sarà tempo anche per un caffè. Però c'è una lampadina da cambiare, intanto che attacco a Mignon, Edison, che voltaggio, quanti watt di potenza vuole, che tipo di lampadina, lampada fluorescente, una lampada incandescenza, una lampada alogena, adesso ci sono poi le lampade anche a LED, quindi anche il semplice cambiare una lampadina, seppur, che bello, abbiamo questo da fare, che è un lavoro molto immediato, poi ce la prenderemo con calma, ecco, ok, va bene, però allo stesso tempo non sottovalutiamo con questo ottimismo che a volte è molto frettoloso e può portare non solo una delusione poi nel percorso che ci attende, ma anche qualcosa che impedisce lo studio, lo svolgimento, in caso del mio lavoro da elettricista. Questo mi ha riportato nelle parole di risposte che sono dentro di noi e a volte sono sbagliate. Questi tre studiosi, in un paragrafo ben preciso, ci raccontano di questo aspetto, quanto l'ottimismo e l'entusiasmo sia importante, ma quanto purtroppo ci porti a sottovalutare determinati aspetti. E questo Scienza e Filosofia a pagina 7 della Domenica del Sole 24 Ore. Al 333-180-9494 aspetterò le vostre risposte per avere il saggio biografico di Giulio Busi in uscita da domani, Giovanni il discepolo che Gesù amava. La collana è Scia, le edizioni sono quelle di Mondadori, per cui insomma un po' di musica, poi dopo aver parlato in maniera molto immediata di ottimismo ed eventuale delusione in seguito per aver sottovalutato l'importanza del percorso tra scienza e filosofia, passiamo invece a qualcosa di più sacro per conoscere questo approfondimento di cui daremo anticipazione a breve. A tra poco. Piacere oltre che un grande onore avere qualche minuto, anzi ringrazio per la disponibilità il dottor Giulio Busi per anticipare il suo lavoro, da me non solo tanto atteso, a proposito di un protagonista di cui velocemente ho dato anticipazione, l'evangelista Giovanni, l'evangelista dell'Apocalisse, il discepolo che Gesù amava, da Mondadori per la collana Scie. Intanto buongiorno Busi e bentornato. Buongiorno, salve. Un'estate impegnativa. No, ma il libro è stato fatto prima, eh? Ah, ci credo, è andato in stampa. Ci credo. Comunque, indubbiamente motivo di fascino anche dall'articolo sull'isola di Patmos che qualche settimana fa, esattamente il 23 giugno, è uscito sulla Domenica, isola che amo tantissimo, di una bellezza straordinaria, dove ha trovato l'ispirazione il Giovanni evangelista per l'Apocalisse, che è una delle parti fondamentali. In questo caso però c'è una visione molto, ovviamente parleremo anche di questo, ma c'è una visione a proposito del rapporto col maestro, il discepolo che Gesù amava. Perché questa specificità, questa affezione particolare? Del resto gli apostoli erano diversi, no? Perché Giovanni in questo caso viene sottolineato in questo modo? Ma questo parte da Giovanni stesso, nel senso che l'espressione viene ripetuta nel Vangelo, ce l'ha solo il Vangelo di Giovanni, e il Vangelo non dice che si tratti dell'evangelista stesso, ma il contesto lo punta chiaramente a questa identificazione, nel senso che il discepolo che Gesù amava non viene nominato il Vangelo di Giovanni, ma tutto lascia pensare che sia l'autore stesso. E questo è uno degli elementi di particolarità. È il Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, perché è considerato più tardo degli altri tre sinottici, è un caso a sé, un caso a parte, molto profondo dal punto di vista teologico, con questo rapporto, diciamo così, preferenziale, che è un leitmotiv di tutto il testo, sostanzialmente. Sì, c'è un passaggio nell'articolo che ho letto, quello che ho citato su Patmos, dove nel cammino insieme a Pietro c'è proprio questo motivo anche ironico che ha Gesù di riprendere Pietro a proposito di questo dualismo, chiamiamolo così, tra i due, tra Giovanni e Pietro, mi pare. È stato così, dottor Busi? Mi sente? Pronto? Sì, sì, sì, è stato probabilmente così, nel senso che questa è la ricostruzione che dà il Vangelo stesso. Poi si parla di una cerchia, sì, che si identifica con l'autore. Io comunque nel mio libro cerco di rimpostare il tema autore, abbandonando, come fa molta critica recente, l'identificazione con l'apostolo, il pescatore, figlio di Zebedeo, e preferendo l'autore in realtà delle tre lettere di Giovanni che sono nel Nuovo Testamento e che è un discepolo secondo la tradizione efesina che si è trasferito ad Efeso, che muore in età molto molto tarda, è stato discepolo di Gesù ma non è l'apostolo dei Vangeli e quindi non è un Galileo, è un tutto lascia pensare che venga da Gerusalemme in realtà. E questo sì è un'altra particolarità identificativa del protagonista, che identifica qualche anticipazione così a proposito. Ma di si rimposta un po' tutta la visione del Vangelo, perché dato che io alla luce di questa attribuzione a Giovanni l'Anziano di Efeso, lo considero, come fa la tradizione efesina, un sacerdote ebreo, e questo cambia, cioè quindi non un pescatore di Galilea ma un sacerdote di Gerusalemme, e questo cambia la prospettiva, cioè allora si capisce la profondità teologica, la complessità e anche in qualche modo l'ansia e i dubbi e il frastornamento e anche l'entusiasmo di questo sacerdote che lascia, in qualche modo entra in crisi e lascia la propria classe che è deputata al sacrificio al Tempio per seguire un maestro che è completamente diverso, che ha completamente un'altra visione del giudaismo in realtà, ecco. E questo per conoscere anche tanti aspetti che vanno oltre il rapporto e l'aspetto spirituale, ma anche quello che poi ci porta a determinati passaggi più vicini a noi. E perché ha scelto Patmos, dove io sono stato e che ho trovato di una bellezza, l'isola greca più bella che io abbia mai visitato, e ne ho visitate diverse, perché arriva a Patmos, Giovanni? Ma secondo la tradizione perché viene relegato, viene confinato in punizione per il suo apostolato cristiano molto probabilmente, e questo esilio in quest'isola è in realtà un segno, potrebbe essere un segno di attenzione comunque da parte delle autorità romane, perché l'esilio veniva di solito garantito a chi in realtà era di ceto abbastanza elevato, non venivano tutti esiliati. Potrebbe essere una traccia. Comunque la tradizione dice che è stato posto sull'isola l'autore dell'Apocalisse per impunizioni, in esilio, certo, sostanzialmente. Allontanato. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, come ho detto, sarà in uscita da domani, quindi abbiamo un'esclusiva per questa prima puntata 2024-2025 del Breakfast Club. Grazie all'autore Giulio Busi, sempre un piacere scambiare due chiacchiere all'interno delle nostre rubriche. La ringrazio tanto per il suo tempo. Buon lavoro, buona giornata e magari a risentirci. Ogni tanto io durante il weekend arriva la telefonata disturbatrice. È sempre benvenuta, come vede. Beh, buona giornata a voi e buon lavoro. Grazie, a presto. Salve. Veramente molto molto attento, molto ispirato. È un autore che seguo e ogni volta che trovo articoli sulla Domenica del Sole 24 Ore, chiaramente tutto ciò capita alla domenica. Io ho modo di intervenire poi, grazie anche alla disponibilità di Giulio Busi, autore di questo lavoro. Un articolo in precedenza sulla Domenica, il prestigioso inserto del Sole 24 Ore, parlava dell'isola di Patmos. Oh, allora, il premio è molto bello, perché il saggio biografico portato da Giulio Busi, Giovanni il discepolo che Gesù amava, edizioni Mondadori per la collana Scie. Quindi iniziamo ad arricchire molto bene la nostra biblioteca. L'isola di Patmos è... Vabbè, ma la domanda però non è sulle bellezze di Patmos, che sono indiscutibili, anzi, se ne avrete la possibilità. Io voglio sapere in che arcipelago della Grecia, del Mar Egeo, si trova Patmos. In quale arcipelago si trova? Li conoscete, no? Gli arcipelaghi. Le isole ioniche, ne dico un altro, così ve ne escludo un altro, non so, le Cicladi. Ecco, ecco bene, sapete già che questi due non sono. In quale arcipelago delle isole greche nel Mar Egeo si trova Patmos? A tra poco, 333-180-9494. Solo per darti il bentornato, un abbraccio Oddo, solo per darmi il bentornato, e tu dici solo? Ma è graditissimo e ricambiato, grazie, grazie compagno, grazie Oddo, grazie di cuore. Sergio è molto attento all'etimo, ma non è per quello, sai. Intanto grazie. L'etimo però non è quello, lo andremo poi a spiegare, sia la tua risposta molto fantasiosa quanto invece la realtà dell'etimo del nome dell'arcipelago, che viene azzeccato. Non mi piace dire azzeccato, perché evidentemente Dino dalla Bolognina, e avrà il suo premio, magari ci incontreremo mercoledì per la serata al Comini Express. Eh sì, ricomincia al Comini Express con i Jazzanova All Star, ci troveremo insieme, ma ne faremo un last minute sicuramente per darne nuovamente presentazione al mercoledì di Comini Express di Binario 60 89. Dino dalla Bolognina, appunto, scrive e ci tiene molto. Intanto ben ritrovato, Dino, grazie di cuore. Sapete che Dino è il nostro campione in playlist di musica italiana per il venerdì. Spero di continuare questa collaborazione. Ci tiene molto perché scrive dodecanneso e poi dice no, con un N, dodecanneso. Esatto, bravissimo Dino, il lavoro Giovanni il discepolo che Gesù amava di Giulio Busi è tuo. Sarà mia cura consegnartelo brevi mano per la serata di mercoledì. Sarà veramente grande piacere ritrovarvi in tale circostanza. Allora, Sergio scrive: beh, certo, ci hanno scritto un trattato musicale in latino, il Do De Caneso, ma non concorro. Certo, il nome l'hai azzeccato, l'etimo non è quello. L'etimo è 12, Dode, 12 isole, Dode Canisa, 12 isole in greco, poi riportato, italianizzato. Tra l'altro è stato anche nel ventennio è stato anche vicinissimo all'Italia, tanto più che a Rodi, a Leros, a Lipsi, a Calimnos, a Simi, a Carpatos ancora si trovano appunto attenzioni e caratteri italiani per quello che è stato il passato della Seconda Guerra Mondiale. Nel Dodecanneso anche Castello Rizzo, vicino a Rodi, tra Rodi e Carpatos, dove è stato girato Mediterraneo. Patmos è l'ultima in alto. E ricordo quando andai, sono atterrato a Rodi, poi con un traghetto tutte le fermate, quindi Calimnos, Leros, Lipsi, e l'ultima è Patmos. Chi organizzava questo viaggio mi ha ritrovato in fondo, praticamente ultimo a uscire. Sono arrivato di notte con questa luna sul castello dei Cavalieri di San Giovanni, la bellezza di Hora e Scala, le due città principali di Patmos, la bellezza dell'arrivo in porto, e questo operatore turistico nell'avvicinarsi mi disse: quindi tu sei l'unico che va a Patmos? Dico, eh sì. E lui rispose semplicemente: beh, complimenti, preparati. Infatti. Sì, Dino, tornano i mercoledì in 33 giri, esattamente. Allora, un po' di musica, pubblicità, poi si ritorna con questi particolari magazine con anticipazioni molto importanti, perché sta passando un aereo proprio adesso, devi passare. Oh, cerca modo di atterrare come si deve, così anche non dai fastidio alla nostra comunicazione. Anzi, speriamo di non darne noi di fastidi alla comunicazione, sarebbe leggerissimamente più importante. Comunque, detto ciò, Festival della letteratura nella splendida città ducale di Mantova. A tra poco, dopo la pubblicità. Grande Dino, finalmente tornano i mercoledì in 33 giri. Sì, esattamente. E ti aspettiamo, e vi aspettiamo. A tra poco.